12.08 minuti, 87.900. Allora, apriamo la pagina relativa alla Turchia. Tra poco ci collegheremo con Istanbul, per cui andremo a capire bene come stanno andando le cose, se effettivamente si è spugnata piazza Taksim, come chiaramente intenderanno i movimenti che da giorni la occupano dare seguito alle proteste. Volevamo però adesso invece diciamo ingrandire un po' un aspetto che certamente crediamo sia di tutto rilievo, e cioè proprio gli arresti che ci sono stati ieri nei confronti dei legali, degli avvocati. Abbiamo visto delle scene diciamo inaudite, insomma, e il fatto che si arrestino gli avvocati è abbastanza sintomatico e rappresentativo, insomma, di qual è lo stato, diciamo, tra virgolette, della democrazia, così per capirci, per intenderci. Oltretutto non è che Erdogan, insomma, abbia in questi giorni, come si suol dire spesso, no, gettato la maschera e fatto vedere il suo vero volto, perché in un modo o nell'altro, insomma, i segni dell'involuzione fortemente autoritaria, insomma, di questo regime erano ben visibili. Però ecco, con Rosario, con Francesco Romeo, che è dall'altra parte del telefono e che salutiamo, ciao Francesco, volevamo un po' approfondire questa vicenda, soprattutto avere delle notizie più dettagliate. Buongiorno, intanto mi scuso per la voce perché ne ho poca. Diciamo che le notizie sono queste. Ieri abbiamo tutti avuto modo di vedere anche l'arresto di un numero imprecisato di avvocati. I numeri variano da 30 a 72 all'interno del tribunale di Istanbul. Erano avvocati che sono impegnati nella difesa dei manifestanti e che stavano predisponendo un documento di protesta nei confronti di quello che stava accadendo. Nel pomeriggio si è avuta una notizia intorno alle 5:30 che erano stati rilasciati, ma in realtà questa notizia non è stata poi confermata, sicché è da ritenere che siano ancora in stato d'arresto. Adesso, in questo momento, ad Ankara, non ad Istanbul, c'è una manifestazione degli avvocati turchi che è partita dal tribunale per protestare contro questi fatti gravissimi che sono avvenuti ieri, ma non gravissimi perché si siano arrestati gli avvocati, allora gli avvocati, diciamo, si lamentano, mentre va tutto bene se si arrestano i manifestanti, ma perché, come dicevi giustamente prima tu, questo è un indice del degrado estremo verso l'autoritarismo più spinto da parte dell'attuale governo turco. Perché se nemmeno si garantisce a chi protesta o a chi viene arrestato di avere una difesa tecnica, davvero non c'è più, diciamo, nessun barlume, nessun elemento, sia pur piccolo, che possa essere incasellato all'interno di quella definizione di democrazia con la quale si vogliono oggi contrassegnare regimi che democratici non sono. Ma tu hai idea di quali possono essere le imputazioni? In questo momento delle imputazioni non si ha idea. Il Consiglio Nazionale, l'equivalente, diciamo, del nostro Consiglio Nazionale Forense, che sarebbe l'Organizzazione Associativa Nazionale degli Avvocati, ha ieri pubblicato un documento molto duro, un comunicato durissimo, in cui si dice che quello che è successo ieri è il punto estremo in cui è arrivato l'autoritarismo del potere amministrativo turco. Leggo testualmente il passaggio del documento dell'associazione legale di Ankara, che credo sia che è l'equivalente del nostro Associazione Nazionale Avvocati Italiani, diciamo, no? Il Consiglio Nazionale Forense. Definiscono anche la giornata di ieri come giornata nera della storia, proprio perché l'ingresso della polizia antisommossa all'interno del tribunale e l'arresto fisico di un numero imprecisato di legali all'interno del tribunale credo sia un fatto di un'enorme gravità che non abbia precedenti nei nostri paesi occidentali, diciamo. Però non è la prima volta che vengono quantomeno inquisiti degli avvocati. No, assolutamente no, soprattutto in Turchia gli avvocati dei militanti del Partito Comunista Curdo sono stati ovviamente hanno goduto, diciamo tra virgolette, delle attenzioni della polizia turca e sono stati spesso arrestati, ma mentre sicuramente lì c'è una cifra politica nella repressione, anche qui si preferiva lavorare, diciamo, di fioretto, nel senso che si trattava di casi ogni volta isolati. Qui quello che stupisce rispetto a ieri è l'ingresso in massa della polizia in tenuta antisommossa all'interno del tribunale di Istanbul e l'arresto di massa degli avvocati all'interno del tribunale. Senti, e la magistratura invece come reagisce di fronte a questo? Della magistratura non ho notizia, e questo, diciamo, è un passaggio assai deludente, perché davvero vuol dire che effettivamente tutta questa democrazia in Turchia proprio non ci stava proprio. A questa delusione fa da corrispettivo il sostanziale silenzio registrato nell'Unione Europea e nel nostro paese. Chi ha dato una posizione un po' più, come dire, in qualche modo accettabile, ma nemmeno, sono stati gli Stati Uniti che hanno espresso preoccupazione. La nostra ministra degli esteri nemmeno a questo è arrivato, il governo tace, la ministra Bonino si è oggi spinta in una informativa in aula a dare una descrizione, soltanto una descrizione di quello che accade in Turchia, per tracciare una distinzione tra piazza Taksim e piazza Tahrir, ma senza esprimere nessun giudizio di condanna. Si sottolinea l'eccessivo uso della forza, ma non seguono iniziative, né in Italia mi pare e né nell'Unione Europea. Peggio che peggio la compagine parlamentare. Due senatori del PD hanno chiesto che il ministro riferisse in aula, ma non ci sono iniziative parlamentari, diciamo, della compagine, vogliamo dire tra virgolette, di sinistra del nostro Parlamento, sia al Senato che alla Camera, che abbiano preso iniziativa, abbiano presentato mozioni, abbiano chiesto di intervenire al governo, abbiano chiesto di ritirare i diplomatici, non lo so, qualunque cosa, niente. Questo insomma è motivo di, come dire, comprensione massima del livello, se vogliamo, un po' di sensibilità politica. Sì, ci sono iniziative estetiche, diciamo, le parlamentari donna di Selle si sono presentate vestite di rosso, ma al di là di questo, magari se insieme a quello ci sì, metti scimmiottando peraltro icone che nemmeno poi hanno chissà davvero quale reale importanza, insomma, perché non mi sembra che poi si possa, no, così sintetizzare in un messaggio fotografico quanto sta accadendo in quel paese ora, ecco. Magari sarebbe il caso che si desse mano, si mettesse mano a proporre delle iniziative al governo, ma questo non sta nei nostri poteri, insomma. E d'altro canto si capisce pure perché in generale, ora al di là degli avvocati, secondo me i manifestanti, come dire, non trovano voce nella comunità internazionale, non avendo nessuna risorsa economica da offrire in cambio a eventuali stati che si schierassero dalla loro parte, insomma, non ci sono contropartite di petrolio, di preziosi, di gas, insomma, solo diritti civili, ma evidentemente i diritti civili per la comunità internazionale pesano solo se sotto hanno risorse economiche. Senti, per andare poi a chiudere invece, sul piano adesso strettamente legale, diciamo, cosa credi che possa succedere? Nel senso, si punta forse a garantire la sola difesa d'ufficio, e quindi sappiamo bene in molti casi, e immagino soprattutto in quelle circostanze, quanto possa valere, insomma? Dunque bisogna vedere quali iniziative, e ancora non è dato sapere perché l'ultimo comunicato della... Mi riferisco ovviamente ai manifestanti che verranno arrestati nelle prossime ore. L'ultimo comunicato dell'Associazione degli Avvocati è di ieri alle 16:45, quindi di ieri pomeriggio. Dipende quali iniziative, oltre alla manifestazione di stamattina ad Ankara, che è ancora in corso di svolgimento, bisogna vedere quali iniziative assumerà l'Associazione Nazionale degli Avvocati Turchi, perché potrebbero a questo punto, essendosi espressi così duramente, correttamente dico, e essendo scese in piazza oggi, potrebbero assumere delle iniziative diciamo forti, anche attraverso, che ne so, ma questo è presto per dirlo, decideranno poi, il rifiuto di partecipare ai processi, oppure viceversa attraverso la creazione di un sistema di assistenza legale molto più, insomma, più connotato politicamente, ecco. Questo è ancora in corso di evoluzione, almeno dall'Italia su questo non ci sono ancora notizie. Va bene, come sempre grazie Francesco per la puntualità delle tue informazioni e a presto. Grazie a voi. Ciao. Buona giornata.